X24 di Giovanni Minoli. L'Istituto Superiore di Sanità ha presentato lo studio sulla mortalità per tumore nella Terra dei Fuochi. I dati confermano che nei 55 comuni tra Napoli e Caserta ci si ammala e si muore di più rispetto al resto del paese. Per vivere in un convento di proprietà del comune di Napoli, trasformato in abitazione, si pagano dai 14 ai 43 euro al mese. Non un caso isolato se si considera la cosiddetta affittopoli napoletana. La raccolta differenziata arriva nel cuore di Napoli, il centro storico. E su Bagnoli ci sono stati ritardi non solo di De Magistris ma anche delle precedenti amministrazioni. Sì. Noi non partecipiamo alla cabina di regia in prefettura perché non ci sono più le condizioni istituzionali per partecipare alla cabina di regia. Il sindaco ha il dovere di sedere a quel tavolo perché rappresenta Napoli. Gianni Lettieri, candidato sindaco per la seconda volta a Napoli col centrodestra con una lista civica. Buongiorno, partiamo dall'emergenza Bagnoli. Partiamo dall'emergenza Bagnoli. Il sindaco De Magistris, se l'abbiamo sentito, non partecipa alla cabina di regia sul destino di Bagnoli. Ha ragione? No, il sindaco fa un errore colossale perché lui, anziché non partecipare, dovrebbe dire al commissario nominato dal governo: vieniti a sedere a Palazzo San Giacomo. Vabbè, lei parteciperebbe, quindi lei parteciperebbe. Assolutamente, ecco. Assolutamente sì. Ma assolutamente. Come opposizione, che cosa avete proposto voi in questi 5 anni per risolvere il problema? Guardi, la prima cosa di non far fallire Bagnoli Futuro. De Magistris ha la grande responsabilità di aver portato a fallimento la società che gestisce Bagnoli e che era proprietaria dei terreni. E oggi qual è il vostro progetto? Un anno e mezzo fa io ho proposto, prima che fallisse, un progetto complessivo che rivedeva la rimozione della colmata, il ripristino della spiaggia, ferma le cubature, il porto, e questa operazione la doveva fare direttamente il comune facendosi finanziare. Senta, l'ho lei, presentato un anno e mezzo fa. Lei è già stato sconfitto una volta da De Magistris al ballottaggio, è una sconfitta che brucia? Guardi, più che sconfitto io, per la verità è stata sconfitta Napoli. Io ho perso al Beh, insomma, lei rappresentava quelli che hanno perso, però. Sì, no, ma voglio dire, al primo turno ho perso per 20.000 voti perché c'è stato un litigio nella coalizione, al secondo turno il PD, il terzo polo e quindi Fini e Casini hanno appoggiato De Magistris e questo è il disastro che abbiamo in città. Napoli oggi purtroppo mancano i requisiti minimi di vivibilità. Sì, e De Magistris racconta un film che vede solo lui. Senta, però dopo il primo turno sembrava impossibile perdere, ha perso, ha capito perché? Io l'ho spiegato perché il terzo polo, anziché venire a votare per noi, ha votato per De Magistris e il PD ha appoggiato De Magistris. Senta, poi è andato a votare il 40% dei napoletani, per cui De Magistris è diventato sindaco con il 26% di maggioranza. Senta, adesso partire da sconfitto è pesante? Assolutamente no, perché io in questi 4 anni e mezzo sono rimasto in consiglio comunale, non ho fatto come gli altri che se n'è andato a fare il senatore, il parlamentare o l'europarlamentare. Mi è stato proposto, io faccio un mestiere che amo, che è quello dell'imprenditore, ci rinuncio solo per dare un riscatto alla mia città. Cioè, senta, io non mi rassegno al declino di Napoli. Senta, lei è stato in consiglio comunale, però i suoi nemici dicono: grande immagine, poco lavoro, l'hanno vista poco. È vero? Ma guarda, no, assolutamente, anzi, ci sono gli atti del consiglio comunale, tutte le manifestazioni che io ho fatto. Quando si trattava di far fallire Bagnoli Futuro, ho indicato la strada per non farla fallire. Senta, tutte le delibere importanti mi hanno visto presente. È chiaro, le voglio precisare una cosa, è chiaro che quando si tratta di andare in consiglio comunale a perdere tempo, perché De Magistris e i suoi già hanno fatto gli accordi per spartirsi qualche cosa e dare favori e presenti a chi vota a suo favore, io a quel punto non ci Senta, vado. Senta, 5 anni all'opposizione, cosa le hanno insegnato che non sapeva prima? Ma per la verità mi hanno dato più la conferma di come stavano le cose. Io 5 anni fa dicevo che il comune era in una situazione tragica, ci voleva una legge speciale per Bagnoli, ci voleva una legge speciale per il comune, la raccolta differenziata andava fatta in un certo modo, dall'altro lato mi si diceva invece il comune sta a posto, ha i soldi sui conti correnti, Bagnoli va bene, raccolta differenziata al 70% in 6 mesi, Senta, alla fine si è verificato quello che io pensavo. Insomma. Senta, intanto la criminalità giovanile è esplosa e sembra inarrestabile. Lei cosa propone per combatterla, di concreto, non di demagogico? No, no, io 2 cose. La prima, un piccolissimo esercito che risponde al sindaco, cioè io voglio fare un corpo di polizia urbana speciale di 300 uomini, con al comando una persona che ne capisce di criminalità organizzata, di combattimento alla criminalità organizzata, un presidio fisso 24 ore 24 in ogni quartiere, poi il ripristino dell'operazione Strade Sicure che ci Strade Sicure, se vogliamo dare dei numeri, ci sono stati 3.860 incidenti gravi in questi anni, 173 morti, la città è al buio. Beh, e mi pare che per dare sicurezza bisogna farne di lavoro. Perché cinque anni fa, da quando è arrivato De Magistris, l'operazione Strade Sicure, che significa l'esercito in strada, che non è militarizzare la città, ma rafforzare il lavoro straordinario che fa Polizia e Carabinieri, ma con questa amministrazione è scomparsa. De Magistris non lo vuole l'esercito. No, non l'ha mai voluto. E poi un'altra cosa, bisogna fare un investimento sui bambini e sulle scuole, perché lei il problema della sicurezza così lo risolve a breve, e poi bisogna lavorare sui bambini, sulle scuole e sulle famiglie per avere poi fra 15 anni una città vivibile. Ma lei al ballottaggio teme di più Bassolino, De Magistris o 5 Stelle? Chi teme di Guardi, più? Guardi, io in questi 5 anni i napoletani hanno visto come lavoro, ho girato in lungo e in largo la città anziché andare a Roma a perdere tempo. Vabbè, ma mi dica chi preferisce come... No, nessuno. Onestamente io penso lei pensa di vincere il primo turno? No, al primo turno credo... Allora andrà al ballottaggio. Penso proprio di sì, ma non mi pongo chi? Il problema con chi, onestamente, non me lo pongo. Ci sarà uno che le fa più paura degli altri? Onestamente, le posso rispondere con sincerità? Deve. No, perché io penso solamente ai problemi e alle soluzioni della città. Vabbè, però qualcuno sarà più antagonista di altri, va bene. Senta, Saviano, per chiudere, dice che il risultato della gestione di De Magistris è che la criminalità dai quartieri periferici è arrivata anche al centro. Colpa del sindaco? Guardi, sa qual è il problema? È che questa amministrazione, quindi De Magistris, ha portato l'amministrazione a una deriva estremista, paurosa, nel senso che anche questo ha portato la città a periferizzare. Quindi lei dice che la criminalità in centro è colpa di De Magistris? Quindi ma se aumenta la disoccupazione, se i negozi chiudono, se nel 2015 hanno chiuso 2000 esercizi commerciali solamente a Napoli, disoccupazione giovanile aumentata del 50%. Se questo lo sappiamo. Senta, lei, un'ultima domanda. Lei ha scritto un libro autobiografico dal titolo L'imprenditore scugnizzo, perché per fare gli imprenditori bisogna essere scugnizzi? No, perché è la mia storia, perché io sono nato e cresciuto in un quartiere popolare che è la Duchesca. Le mie prime 5.000 lire le ho guadagnate perché Gino Paoli era fuori al negozio dei miei genitori, guardava le radioline, gli cadde un po' di cenere, mi andò negli occhi e mi regalò 5.000 lire, avevo 8-9 anni. Senta, sono nato e cresciuto, a 19 anni ho iniziato a fare imprese in tutto il mondo. Senta, ma ultimissima cosa, vince il Napoli o vince la Juve il campionato? Ma il Napoli non si discute proprio. Non si discute, grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Progressiva perturbazione psichica, mutismo e deambulazione instabile al quarto mese, perdita di un quarto del campo visivo dopo 6 mesi. Faremo delle analisi e scopriremo cos'è che ti fa star male. C'è una famiglia di malattie molto rare. Lorenzo ha una di queste. È un errore del metabolismo. Il suo decorso è inesorabile. La fine ineluttabile. E lei ne è assolutamente certo? Sì. Si tratta di una vera e propria roulette genetica. Beh, è tutto arbitrario, capite? La colpa non è di nessuno. Qualcuno deve star lavorando su questo, no? Noi andremo ovunque sia necessario. Sì. 10 anni fa questa malattia non era stata neanche identificata. Stiamo ancora cercando di capire cos'è. La nostra è quella che viene chiamata malattia orfana. È troppo rara per essere notata. Troppo rara per dedicargli dei fondi. Non vi aspetterete sul serio che io autorizzi una terapia solo in base ad un unico risultato promettente. C'è qualcuno da qualche parte che sta dando la caccia a una terapia definitiva? Hm? La medicina non è come la fisica, non esiste certezza matematica. E forse, poiché abbiamo di fronte esseri umani che soffrono, questo può sembrarci crudele. Se una persona non si può più muovere, non può più vedere, non può più parlare, come si può fare a sapere che cosa rimane? Lui è il mio bambino, è il mio unico e solo desiderio è di riuscire a riaverlo come era prima. Erano le voci del film L'olio di Lorenzo, una storia vera che racconta la drammatica vicenda della famiglia Odone e della loro lotta per salvare il figlio Lorenzo affetto da una malattia rara. Oggi il 29 febbraio è un giorno raro, per l'appunto, scelto proprio per questo come giornata mondiale delle malattie rare. Ogni minuto nel mondo nascono 10 bambini affetti da una delle oltre 6.000 patologie rare finora conosciute. I sintomi possono comparire a ogni età, ma nel 70% dei casi si manifestano nei primi 5 anni di vita. Possono colpire ogni organo e compromettere funzioni fondamentali per la vita quotidiana. Spesso sono sindromi che colpiscono più organi. Quasi sempre sono nemiche terribili che creano problemi e sofferenze enormi al malato e ai familiari che lo assiste. Domenica Taruscio è direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità. Quest'anno la giornata mondiale, cioè oggi, sulle malattie rare è dedicata alla voce del paziente, cioè? È una giornata proprio per far capire a tutta la società in generale non soltanto i bisogni dei pazienti con malattie rare, ma soprattutto anche la ricchezza delle associazioni, delle singole persone, la ricchezza in termini di esperienza, di crescita culturale, ma anche di capacità, di expertise che hanno maturato in tutti questi anni e che quindi mettono a disposizione di tutti gli stakeholders. E come? Come? Attraverso, noi abbiamo voluto dare visibilità ai progetti, alle migliori pratiche che sono emerse sul territorio nazionale e anche internazionale. Abbiamo invitato i relatori di alcuni progetti che presenteranno quindi come attraverso progetti specifici hanno contribuito la crescita della ricerca scientifica, ecco. Per esempio attraverso NIC trial clinici c'è una sessione assolutamente interessante, come i pazienti, partendo da una famiglia, da una signora che è Ellen Cederoth, svedese, aveva figli senza diagnosi, bambini senza una diagnosi, da suo appello è nato un network internazionale per le malattie senza diagnosi. Ecco, le malattie senza diagnosi, parliamo di questo. Il problema principale di chi è affetto da una malattia rara è proprio identificare i sintomi e riconoscere la patologia. Voi come aiutate i pazienti in questo percorso? Ci sono sia telefono verde malattie rare all'Istituto Superiore di Sanità 889 69 49 sì. È un filo che può essere assolutamente utile per chi ha segni e sintomi, certo. E quindi telefonare, avere informazioni sui centri, su dove rivolgersi a livello sia nazionale che internazionale, ma anche a livello locale. Ma quante sono le malattie rare riconosciute in Italia? In Italia sono circa 500, se espandiamo i gruppi diventano anche addirittura circa 2000. Il tentativo adesso è di fare macro gruppi di patologie e non lasciare nessuno escluso. Nessuno escluso. Ma che cosa comporta il riconoscimento di una malattia rara per i malati? Essere incanalati in un percorso preferenziale di tipo diagnostico assistenziale, cioè fanno parte della rete nazionale malattie rare, una rete che prevede la presenza di centri di diagnosi e di terapia. Ma i malati possono correre dei rischi affidandosi a cure nuove? Perché se sono malattie rare le cure saranno sperimentali. È importante però che siano sempre vagliate dalle autorità sanitarie. E come li tutelate? Con l'autorizzazione attraverso l'AIFA, con l'autorizzazione attraverso l'EMA. Ci sono ovviamente le autorizzazioni delle agenzie predisposte a dare l'ok a derogare una terapia. Ma la prevenzione è possibile nel caso delle malattie rare? Certamente sì, si può fare una prevenzione primaria, per esempio per alcune malformazioni congenite. Un esempio fra tanti è la prevenzione della spina bifida, che comunque è una malattia rara, attraverso la utilizzazione in tempo adeguato della vitamina acido folico alla madre che desidera un bambino. E poi ci sono anche altre prevenzioni di natura secondaria, per esempio tutte le malattie metaboliche possono essere prevenute attraverso lo screening neonatale. Un bambino appena nasce si fa uno screening sul spot ematico. E lì che cosa si capisce? Si può capire rispetto alle malattie rare? Se il bambino presenta un difetto metabolico e se per quel difetto poi esiste una terapia efficace. In quel caso si somministra immediatamente la terapia e il bambino non avrà né ritardi di natura diagnostica, ma soprattutto non avrà ritardi di tipo intellettivo, motorio, accumulo. Sono screening obbligatori questi? Attualmente no, è uno screening soltanto facoltativo in alcune regioni, ma c'è un disegno di legge che ha superato uno dei due rami del Parlamento, il Senato ha dato l'ok, adesso è in discussione in aprile. Screening neonatale allargato si chiama, proprio una legge che va sotto il nome della senatrice Taverna. Ma insomma... Per chiudere, il piano nazionale delle malattie rare, di cui lei ci aveva parlato lo scorso anno, a che punto è? Procede, siamo a metà strada effettivamente, scade a fine 2016, si sta implementando la rete dei centri per essere pronta all'appuntamento europeo, il primo marzo parte la call internazionale, quindi una chiamata internazionale per i centri di tutta l'Europa ad unirsi e fare reti di riferimento europee per malattie rare. Può ripetere il numero per cortesia? 800 89 69 49, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Sara Ceccherini ha 31 anni ed è affetta da osteogenesi imperfetta, malattia genetica rara che deforma le ossa e le rende fragili. La sua storia comincia dalla Toscana, passa da Parigi per spingersi fino al Kenya. Proviamo a cominciare dall'inizio. Allora, la tua malattia si è manifestata nell'utero materno, è così? Se sì, non... è una malattia che nei casi più gravi come il mio, diciamo, si vede subito con fratture, comunque deformità a livello osseo. E la tua famiglia come ha reagito quando ha preso coscienza di questa cosa? All'inizio la malattia non era molto conosciuta, quindi non sapevano molto bene in realtà cosa fosse, quindi comunque hanno deciso di provare a vedere se comunque poteva esserci una cura, certo, anche sperimentale, però il problema è che comunque la cura vera e propria non c'è. Ma quante operazioni hai avuto nella tua vita? Tante. Ora, il numero preciso sinceramente non glielo so quantificare. Più di 15, 20, non lo so. Ma perché le operazioni erano per cosa? Le operazioni si fanno principalmente all'inizio, siccome abbiamo conosciuto questo medico che si chiama Finidori a Parigi, che comunque era il primo che si occupava di questa malattia rara, e lui comunque inizialmente ha infibulato tutte le mie ossa con dei chiodi telescopici che crescono naturalmente con la crescita dell'osso, servono praticamente per tenere dritti le ossa e prevenire comunque le fratture. Composte. Perché questa è la cosa che capita più facilmente per sì, te? Sì, quando ero piccola comunque fratture anche per... veramente per niente, tipo una volta ho tirato la cartella della scuola giù dal banco e mi sono rotta l'omero. Cioè proprio... Sì, proprio fragilità estrema. Sì, ovviamente dipende dal grado della patologia che ha. Certo, ma tu hai provato cure sperimentali oltre a queste che hai fatto a Parigi? Sì, sì. Perché sì, essendo una malattia rara... Sì, a Valeggio sul Mincio, che è vicino a Verona, ci sono state delle cure sperimentali si chiamano difosfonati. Sono delle flebo che vengono fatte ogni 3 mesi, servono per la calcificazione delle ossa e quello perlomeno a me ha funzionato. Sono riuscita ad avere meno fratture comunque, sono caduta anche altre volte, comunque è successo che però non ho mai più avuto grandi. E quindi la cosa fratture. Più pericolosa per te è fare l'attenzione a come ti muovi, insomma. Sì, esatto, però non è mai stato un grande problema per me, nel senso che ci rompiamo alla fine... Poi ci ricomponiamo. E poi è capitata una cosa incredibile, insperata, che sei diventata mamma. Sì, praticamente come mi piace molto viaggiare, vabbè non è stato il primo viaggio comunque in Kenya, però diciamo è stato quello che mi ha rubato più il cuore. E sono stata molte volte in Kenya, era iniziata questa relazione, però insomma niente di serio. Invece comunque andando avanti con gli anni avevamo comunque un progetto... Di formare una famiglia, insomma di sposarsi, però prima ecco volevo vedere come andavano le cose e poi eventualmente pensare a un'eventuale maternità. È stata molto disperata e... Ma è stata una gravidanza difficile, 9 mesi difficili con questo pericolo di rompersi in continuazione? Più che altro perché ho un corpo molto piccolo. Sinceramente dall'inizio mi sono sentita sempre molto tranquilla. Chiaramente anche insomma tutta la mia famiglia erano un po' in ansia per me perché comunque non sapevamo niente, io non ero informata cosa sarei fatta se insomma avessi cercato la gravidanza, mi sarei informata. Certo, è stata una sorpresa insomma. È stata una sorpresa per tutti, più che altro perché comunque io, siccome sono un carattere dominante nella mia struttura genetica, ho la possibilità di trasmettere al 50% la malattia al bambino. E invece quindi no. Quindi comunque mi sarei informata. No, il bambino è... E invece 9 mesi difficili con questa paura, poi invece il parto... I dottori mi avevano detto che comunque dovevo partorire a 7 mesi perché non ce l'avrei fatta, che comunque il bambino sarebbe cresciuto e io non avrei più respirato perché mi si sarebbero compressi i polmoni, insomma, eccetera, eccetera. però l'ho sempre vista positivamente, ho cercato sempre di stare serena, comunque di non mi bloccare. E sono stati 7 o 9 mesi poi? Sono stati quasi 9 mesi perché ho partorito 37 settimane, quindi fino all'ultimo io stavo benissimo, quindi per me non c'è stato nessun problema. E quindi tuo figlio che sta benissimo, che è sanissimo, che non ha la tua malattia, si chiama Kevin, ha quasi 2 anni. Sì. E quindi tu sei proprio un'eccezione, insomma. Sì, sì, nel senso che per me è una cosa normale perché ho vissuto, cioè, normale, quindi io non ho visto difficoltà come potevano vedere gli altri. Non le hai viste? Dato che non le hai viste, non c'erano. Sì, comunque nella mia vita ho fatto sempre quello che ho voluto fare, anche se comunque le persone mi davano giustamente, perché è giusto che mi diano dei consigli, visto e considerato insomma la mia patologia, giusto che mi diano dei consigli, però ho sempre fatto di testa mia. E adesso che cure stai facendo? Adesso niente, devo solamente riprendere queste cure a Valeggio, perché l'ho interrotto per la gravidanza, ovviamente. Certo. Devo riprendere queste cure che comunque hanno funzionato. Questa cura sperimentale per una malattia rara, insomma. Sì, esatto. E allora ti faccio tanti tanti auguri. Grazie mille. E per amore di verità va detto che la legge sulle malattie rare è a firma Taverna del Movimento 5 Stelle, però se ci rompiamo ci ricomponiamo, dice questa ragazza con una naturalezza che è davvero incredibile, il segno di un coraggio naturale. Che dici, Mario? Sì, dal punto di vista ovviamente del pensiero, dell'anima, della fisiologia, diciamo così, non dell'esistenza. Poi però, quando ci riempiamo, spesso non ci ricomponiamo. No, infatti. questo è il punto vero. E ai progressi della scienza, che sono grandi, in realtà mancano tasselli fondamentali, appunto, no? Come ricostruire gli organi, capire il ciclo della vita. Ma lì si spezzano proprio per un gesto. Hai esatto. Visto? Racconta Pietrangelo, una cosa impressionante. È una cosa a maggior ragione impressionante, perché questa è la nostra, questa nostra epoca mette tra parentesi, anzi derubrica, il sacrificio, il dolore, la malattia. È una testimonianza più che un'esperienza questa che abbiamo ascoltato, è quella che porta in una strada che nessuno vuole evocare, ed è una strada di vera e propria santità che si esperisce in vita, che è una dimensione quotidiana. Molto spesso immaginiamo che sia soltanto da immaginare per esistenze particolari, per esperienze mistiche, lontane dalla vita di ogni giorno. Invece molto spesso, magari non ce ne rendiamo conto, ci capita di incontrare storie di vera e propria santità accanto a noi, nell'autobus, e in quelle esistenze che ci ascoltano, ci seguono, sono vicine, eppure lontanissime perché non raccontate, che sono quelle del dolore e della malattia. E l'80% delle malattie rare è di origine genetica, e spesso si tratta di patologie croniche e potenzialmente mortali. Andrea Ballabio, che è fondatore e direttore dell'Istituto Teleton di Genetica e Medicina a Napoli, ha appena vinto il premio Louis Jeanneté per la medicina del 2016. Prima di lui non l'aveva vinto nessun italiano mai, ed è un premio tra i più importanti in Europa, quindi un'eccellenza assoluta. Prima parlavamo di Napoli distrutta, invece questa è un'eccellenza assoluta che convive a Napoli e viene assegnato a ricercatori che si distinguono per i risultati ottenuti. Che cosa ha vinto? Con che cosa? Insomma, qual è la ricerca con la quale ha vinto questo premio? Con una scoperta. Questo è un premio che non viene dato alla carriera, viene dato per una scoperta scientifica. Il mio gruppo di ricerca ha individuato un gene che coordina il funzionamento di alcune strutture cellulari che si chiamano lisosomi, che sono responsabili della pulizia della cellula, cioè ripuliscono le cellule da sostanze tossiche che si accumulano durante la vita della cellula. E questa scoperta, oltre ad essere un nuovo meccanismo biologico, può avere applicazioni per malattie come, come per esempio malattie neurodegenerative comuni come Alzheimer e Parkinson, dove c'è proprio appunto l'accumulo progressivo di sostanze. Ecco, lì al TIGEM lavorano 16 gruppi di ricerca, 170 persone. Negli anni il suo gruppo ha identificato questi geni responsabili di molte patologie e ha preso parte al progetto Genoma Umano. Di che cosa si tratta? In realtà ci sono tantissime malattie genetiche di cui appunto si occupa la Fondazione Teton, sono oltre 7000 diversi tipi di malattie. Ognuna di queste malattie genetiche è dovuta alla mutazione di un diverso gene, quindi il nostro primo obiettivo è stato quello di identificare il gene di ciascuna delle malattie genetiche su cui eravamo interessati, per poi caratterizzarne il meccanismo e poi individuarne una cura. Ma oggi è la giornata internazionale delle malattie rare, patologie che colpiscono una persona ogni tantissime, diciamo. Ci spiega come la medicina genetica contribuisce a curare queste malattie rare? Allora, innanzitutto diciamo che la stragrande maggioranza delle malattie rare, credo oltre l'80%, sono malattie genetiche. Appunto. Quindi ovviamente essendo definite come malattie genetiche sono dovute a mutazioni di geni e quindi solo tramite l'approccio della genetica si può capirci qualcosa su queste malattie, perché in molti casi i medici guardano insomma i sintomi della malattia senza sapere assolutamente di che si tratta, insomma di qual è il meccanismo. Ecco, ma è possibile prevenirle? È senz'altro possibile prevenirle, noi però oltre al discorso della prevenzione siamo molto focalizzati anche sulla terapia, perché capirà bene che per famiglie in cui esistono già dei casi, bambini per esempio con malattie molto gravi, la prevenzione per queste famiglie non è l'unica cosa importante. Insomma. Ecco, ma appunto, allora curare. Quante delle vostre ricerche si trasformano effettivamente in terapie e cure per i malati? Lei ha parlato, per esempio, la cosa per cui ha preso il premio, la ripulitura dei geni, e ha parlato dell'Alzheimer. Ecco. Allora, guardi, questo è sempre molto difficile dirlo. Praticamente nella ricerca si parte dalla scoperta del gene fino a scoprire poi il meccanismo e poi il percorso è ancora molto lungo prima di arrivare al letto del malato ad una terapia. Noi ci siamo riusciti, ma non ci si riesce sempre e purtroppo ci vogliono tantissime risorse, perché poi il tipo di sperimentazione che si deve fare quando si avvicina sempre più alla terapia diventa diverso. Bisogna cominciare a testare se non ci sono effetti collaterali di una possibile terapia, bisogna vedere se non ci sia una tossicità dei farmaci che uno sta somministrando, pericoli vari e così via, per cui è un percorso molto lungo, ma spesso si riesce ad arrivare al traguardo. Ecco, ma per esempio per l'Alzheimer? Per l'Alzheimer, guardi, queste malattie neurodegenerative cosiddette late onset, cioè insorgenza tardiva come l'Alzheimer e il Parkinson, sono le malattie tra virgolette più promettenti, che noi consideriamo più promettenti dal punto di vista della possibilità di arrivare a una cura, perché abbiamo tempo di agire. Quelle più difficili sono quelle che insorgono molto precocemente, quelle invece tardive c'è il tempo di agire e io sono convinto che ci saranno presto, non so se da parte nostra o da parte di altri ricercatori al mondo, grossissime novità su queste malattie. Ah, presto cosa pensa? Ma qui è sempre difficile dare una stima, però per presto si intende nell'ambito di 10 anni. Diciamo. Ah. Senta, un'ultima cosa, lei è nato a Napoli dove ha studiato, poi ha trascorso molti anni negli Stati Uniti ed è rientrato in Italia nel 94 e ha fatto una scelta controcorrente. Ha fatto bene? Io ho fatto benissimo, ma ho fatto benissimo perché c'erano le condizioni per svolgere al meglio e forse anche meglio di come lo facevo negli Stati Uniti il mio lavoro qui in Italia, perché ho alle spalle un'organizzazione trasparente, forte, meritocratica come la Fondazione Teleton, che ha messo in condizione me, così come tutti i giovani ricercatori che sono riuscito a far rientrare dall'estero, di lavorare qui come se fossimo negli Stati Uniti. Beh, una bella esperienza di eccellenza assoluto. Ripeto il numero verde sulle malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 896949. Ripeto, 800 896949. Molti ce l'hanno chiesto. Abbiamo Gianluca da Roma. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono principalmente il papà di Davide, uno splendido bambino di 4 anni affetto da sindrome di Pitt-Hopkins. Nel 2004, insieme ad altri 5 genitori, abbiamo fondato l'associazione. Sì. La sindrome di Hodgkins è una malattia rara, definita quasi negletta, in quanto in Italia ci sono meno di 40 casi e 500 nel mondo. Si sa molto poco, come può bene immaginare. È stata individuata nel 2007, è una mutazione genetica, riguarda in particolare il gene TGF-4 e il cromosoma 18. Ecco. La preoccupazione più grande nostra è che di questa malattia, di questa condizione genetica, se ne sa veramente poco, e anche e soprattutto i medici e gli operatori sanitari non la conoscono. Ecco. E quindi? E quindi siamo fortemente convinti, noi e i pochi medici che la conoscono, che sia estremamente sottodiagnosticata e che ci siano in Italia, come in giro nel mondo, tanti bimbi come mio figlio, con tutti i suoi problemi, col suo ritardo cognitivo, la sua assenza di linguaggio, possibilità di convulsioni, epilessia, problemi neurologici, classificati semplicemente come bambini con problemi. E non c'è la ricerca adatta. Ecco, io ripeto anche a lei il numero verde delle malattie rare, perché è di lì che forse bisogna ripartire. 800 896 896 949. Grazie. Pubblicità. Mix 24. Ecco, ricordo che per questa vicenda della voce del paziente, la giornata di oggi, in diretta su Sanità 24 fino alle 13.30. E intanto, Pietrangelo, tu cosa ci fai sentire? Arriva. Thanks for stopping by my sick bed, to tell me where I'm going when I'm dead, to tell me all about the wrath to come, some creeps or flowers would have done. Look, man, what is still got time? I wouldn't change your life for mine. If that would wonder how you sleep at night, don't be a ghost and roll all your life. Allora, Pietrangelo? Allora, c'era un cartello oggi in metropolitana con scritto questo: libera la mente finché sei in tempo, ed era stampato sui manifesti affissi agli ingressi e quindi nei tabelloni, dove la scritta a scorrere lampeggiava come un monito. E però è successo che in un verso sono salite le anime sui vagoni e hanno lasciato i corpi, e invece la mente è andata a finire tra i binari. E in un altro verso, invece, sono entrati stretti in schiera i cuori e hanno disseminato dappertutto storie d'amore lungo tutta la linea. Insomma, ha chiamato la malinconia e ha dedicato questo brano direttamente ad Albrecht Dürer. Mario, tu dove ci porti con la tua bolla? Sai che io guardo l'agenda istituzionale. Eh sì, per fortuna. Che segui tutti cosa fanno i nostri poteri. I nostri grandi poteri. Sì, sì, sì. Dove vanno a rappresentarci. Io sarò fattuale. Faccio una cosa che giudicate voi. Mettiamo anche un po' di musica, dai. Morricone ha vinto finalmente. Ha vinto finalmente. Sentiamo ancora un po'. Bellissimo. Quanto viaggia la presidente Boldrini? Viaggia. Il viaggio di oggi per è fantastico. Per il bene dell'Italia. Io per il bene dell'Italia vi leggo, perché bisogna leggerla appunto per il bene dell'Italia, vi leggo l'agenda di oggi, che sarà basata a Londra. Ore 10:30, La Presidente incontra il leader della Camera dei Comuni, Chris Grayling. Ore 11.45, incontro con la Lord Speaker della Camera dei Lord, la baronessa Sosa. Ore 12.25, incontro con lo Speaker della Camera dei Comuni, John Bercow. Ore 15.30, incontro con il leader dell'opposizione, Jeremy Corbyn. Ore 16.15, King's College, incontro con i giornalisti. Ore 17.30, King's College, lettura per le conferenze di Jean Monnet. Allora, bello, elegante, colto, altamente necessario per i destini della nazione, moltiplicato più volte e naturalmente paga il contribuente. Ma è una giornata intensa, accidenti, se lavorasse sempre così di pure. Meraviglioso, devo contarli adesso i viaggi, faccio tutto sto elenco che ha fatto Mario. Bello, bello, bello. Ma sta poveretta, utile. Dove lo trova il tempo per fare shopping? Non lo so. Beh, guarda, lavora tanto. Dalle 12.25 alle 15.30 mangia e fa shopping. Immagino. Comunque, suppongo. Avevo fatto il conto dei discorsi della Presidente della Camera, che è terza carica dello Stato, dove ha un profondo rispetto. Adesso voglio fare il conto dei viaggi e anche di quelli della seconda carica dello Stato, il Presidente Grasso, il Presidente del Senato. Vabbè, vedremo. Perché anche così almeno qualcuno ogni tanto lo scrive, capisci? Visto che non è facile leggerlo da qualche parte. Ormai. Veniamo rappresentati bene all'estero, alla Salamino. Grande. Primaristi, campidoglisti, sindacaristi, che è cosa ben diversa dai sindacalisti, nonché banchettisti, insomma la tombolata delle candidature alle amministrative di Roma non conosce tregua. A parte gli smanettoni dei 5 Stelle, credo siano stati 1500 giù di lì, che hanno scelto Virginia Raggi, carucciano un poco, diciamolo. Danze aperte sono a sinistra con le primarie fatte coi candidati tutti a modino e quindi lì sono danze che corrispondono poi in alternativa al caos danzante che invece c'è a destra. E la musica, caro Giovanni, è una sola. Ricerchiamo un bravo e serio capolista per le comunali. Per lavoro molto duro in giunte piuttosto aggravate. Oggi alle 13 Matteo Salvini darà notizia del nome indicato da 10.000 romani che si sono recati ai banchetti della Lega collocati a Roma per scegliere loro un nome. È successo che nottetempo, cioè ieri sera nottetempo, si sono portate le urne in casa del senatore Centinaio. E insomma, è proprio perché lì ribolle la situazione. Intanto perché il Cavaliere si è molto adirato. Perché si è molto adirata Giorgia Meloni. Si è molto adirato l'unico risultato certo da queste consultazioni. Cioè, si è molto adirato quello che probabilmente verrà bastonato in questa scelta, cioè l'ex capo della protezione civile. Non l'ha detto. Chi l'ha detto? Vedremo. Si sa, si vede, si capisce, immagina. Si immagina. Però chissà se nottetempo l'ira di Berlusconi non abbia fatto mutare questo risultato. Comunque il vero problema però è lo Stato. Perché come ve lo spiegate? Insomma, spogliate e dite subito il risultato. No, se lo portano in casa. Allora, il vero problema però è lo stallo. Perché Berlusconi non può tornare indietro sull'ex capo della protezione civile. Quel nome ha fatto e quel nome deve essere. Giorgia Meloni a questo punto che fa? È costretta a candidarsi. Francesco Storace resta in campo e guadagna consensi. Insomma, va a succedere che questo vantaggio che aveva avuto Alfio Marchini diventa un problema. Perché? Qual è la morale? Giusto per citare Trump. Meglio perdere una volta per tutte e non se ne parla più con Bertolaso che vincere 100 volte con Alfio Marchini. Vi chiederete, ci chiederemo, ci chiedono tutti qual è il futuro della destra? Ma è semplice, la risposta c'è già. Sono i fratelli Zappa Costa, salutati dalle sorelle Marinetti. Non me ne importa niente, non me ne importa niente. Tutti vogliono parlare, tutti vogliono criticare questo mondo ma di gente. L'hai visto? Diamo ancora il numero verde delle malattie rare perché molti ce lo chiedono. 800 89 69 49. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, una cosa di mercato. super trend, dai, non c'è bisogno neanche di dirlo in realtà, ancora un po', dai. Geniali. Allora, occhio a loro, Giovanni, perché il 2016 finora dei mercati, voglio parlare, ha un grande vincitore. Sta per staccare la pagina di febbraio e cominciare quella di marzo, e il vincitore è l'oro, perché finora ha guadagnato il 15%. Con la volatilità in borsa così alta, molti cercano rifugio appunto nel gold, nel lingotto. Quanto durerà questa cavalcata? Non lo sappiamo, certo che 15% dall'inizio di penso che aveva finito febbraio male, cioè febbraio, scusami, dicembre l'anno scorso male ai minimi, poi l'impazzimento dei mercati lo ha rimesso, diciamo, lì in pista, in testa. Vediamo quanto dura. Più incertezza c'è, più certezza c'è per loro. Pubblicità. Mix 24. Dobbiamo unire i nostri sforzi per affrontare i problemi che ciascuno di noi ha davanti sulle basi della legge internazionale e creare veramente una ampia coalizione internazionale contro il terrorismo, simile alla coalizione contro Hitler. Noi non abbiamo mai rifiutato la possibilità di rapporti migliori con qualsiasi dei nostri partner, in Occidente come in Oriente. Non chiudiamo mai le porte alle nostre controparti. Putin, possiamo fidarci di quest'uomo? Sì, perché nella comunità internazionale è del tutto evidente che nessuno può immaginare di costruire l'identità europea contro il nemico più grande, contro il vicino di casa più grande, considerandolo il nemico più grande. Costruire l'identità europea contro la Russia è un'assurdità. Vladimir Putin, moderato, lungimirante, consapevole. Matteo Renzi, con lucido realismo, riconosce alla Russia un ruolo centrale nella politica europea. Oggi dunque il presidente russo è uno dei leader più potenti del mondo. Noi allora, per capire un personaggio tanto complesso, così ricco di luci e di ombre, torniamo alle sue origini, torniamo a Leningrado. Vladimir Putin, un ritratto inedito dell'ultimo zar della Russia, dagli anni del KGB al braccio di ferro con gli oligarchi. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Canzoniere. Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, c'hai ancora un solo un aggiornamento, ma lei, sentiamo un nostro amico. Ma che gli ha preso a Cromwell di fare un giro di conferenze? Perde 60 milioni a trimestre. Parlerà su come si perdono soldi. Gesù Cristo, se vendesse mare non morirebbe più nessuno. Vabbè, Gordon, ecco, grande sceneggiatura, sì, questa. Sì, grandissimo. Allora, i mercati sono molto incerti, sto sul filo delle cose che dicevo sull'oro, sì. Anche perché occhio, che l'oro viene da $1,760. Qualcuno si è già scottato. Ma questa è la borsa, questi sono i mercati, è chiaro. Vale anche per i metalli, non quello che vale per le azioni, anzi di più. E no, dicevo, invece, c'è stato appunto il summit del G20 a Shanghai con degli esiti abbastanza incerti sul 2016. Le borse stanno, in questo momento, sono più che incerte, stanno andando male. E la sterlina resta alta, anche perché il vertice ha fatto un comunicato sul Brexit molto allarmante, cioè che potrebbe avere delle ripercussioni fortissime sulla crescita nel 2016, se accade appunto che vince l'uscita. E a questo punto i mercati continuano ad avere queste incertezze, oggi, domani, dopo, se non trovano una soluzione noi faremo una puntata questo prima o poi. Esatto. E intanto con il professor Bernabei, Roberto Bernabei, oggi commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Science, febbraio 2016. Invecchiamento del follicolo pilifero e eliminazione delle cellule staminali. La calvizie è un problema che affligge tipicamente i maschi e ci sono, come sapete, tanti maschi che farebbero qualsiasi cosa pur di farsi ricrescere i capelli fino al trapianto, che personalmente mi pare una esagerazione chirurgica, ma io ho un sacco di capelli e quindi non devo e non posso parlare. Ma quello che è interessante è che c'è comunque una calvizie senile che affligge uomini e donne, che è un magnifico esempio di invecchiamento e un modello addirittura di invecchiamento, perché tutti gli organi sono destinati a rimpicciolirsi nella vecchiaia e si rimpicciolisce anche il follicolo pilifero, che è una specie di mini organo. Le pareti del follicolo sono tappezzate da cellule staminali, che sono quelle che permettono la ricrescita dei capelli. Quando, con l'invecchiamento, queste cellule staminali diventano cellule epiteliali, cioè cellule che semplicemente tappezzano la parete, ebbene, allora arriva la calvizia senile. Questo è un quadro che colpisce indifferentemente i due sessi e non ha niente a che fare con la calvizie del tipica da androgeni, tipica del maschio che poi si lamenta e cerca le soluzioni più variopinte per rimettersi i capelli in testa. Ma questo ci dice come da un certo momento in poi non siamo più capaci di riparare il danno che l'età dà al nostro DNA, per cui le cellule staminali non sono più capaci di entrare in funzione, e da una parte viene la calvizie, dall'altra viene l'invecchiamento in generale. E per chiudere, Gloria Guerrera, che ci racconta? Oggi una canzone per chi non sa da quali braccia lui non è più tornato. Mina, Ai mi amor. Lo negherò sempre, perfino con Dio, che a volte il pensiero, vagando di suo, ritorna a cercarti, esulta al ricordo, poi torna a sfinirmi, cattivo e testardo, e penso alla notte che sola morivo, e tu pur sapendo che sola morivo, chissà da che braccia non sei più tornato. Non mi hai mai